Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. È più ricca del mondo nella regione più povera d'Italia. È la mafia dei pastori d'Aspromonte e dei broker internazionali. La mafia che ha lasciato bombe e bazooka per i magistrati che indagavano o i giornalisti che raccontavano. Ma è anche la mafia che ha ingannato col suo silenzio e ancor prima col suo nome. Un nome che sa di coraggio, 'Ndrangheta. Ma in questa terra di contrasti c'è anche e soprattutto il coraggio vero, autentico di chi con caparbietà decide di restare, combattere e invertire la rotta, anche con una denuncia. I primi che l'hanno fatto in Calabria a lungo hanno convissuto col marchio dell'infame, isolati, minacciati e spesso abbandonati, come più volte abbiamo denunciato in questa rubrica. Ora però il numero di quanti decidono di metterci la faccia in questa sfida e di restare in Calabria, per dirla col titolo dell'iniziativa che si celebra oggi nella punta dello stivale, è aumentato. E questo può fare la differenza rispetto a quando, solo 2 anni e mezzo fa, dire che un commerciante avesse indicato i suoi estorsori sembrava uno scherzo, come ci raccontò il procuratore capo di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone. C'è una realtà in evoluzione, in movimento, che è crescente la presa di consapevolezza dell'esistenza di un problema e non deve sembrare una cosa da poco. È possibile in qualche modo quantificare, ad esempio, il numero di denunce in aumento che ci può essere stato? Partendo da zero è chiaro che anche 10, 12 o 15 è un numero importante. E questa è la realtà della provincia di Reggio Calabria. Sotto le feste di Natale del 2008 c'è stata la prima denuncia, dopo anni evidentemente, di un commerciante che denunziava di essere stato vittima di un tentativo di estorsione. Quando io l'ho comunicato al prefetto non ci credeva, pensava uno scherzo. Il commento è stato: a Reggio Calabria queste cose, cioè di un commerciante che denuncia in modo specifico un tentativo di estorsione, non succedono. Le denunze che ci sono state quest'anno sono un grosso passo avanti. Una ventina? Siamo in quest'ordine di idee. Una ventina di denunce nel 2010. Paradossalmente, mentre in Lombardia i magistrati lamentano l'assenza di collaborazione da parte delle vittime, qualcosa nell'aspra Calabria, laggiù, si è mosso. E poco tempo fa, ad esempio, ci sono stati anche commercianti col coraggio di andare contro uno dei più potenti clan di 'Ndrangheta, come quello dei Piromalli nella piana di Gioia Tauro, ricorda il procuratore aggiunto Michele Prestipino. Nel corso delle indagini poi abbiamo avuto anche il contributo, questo è estremamente significativo, di questi commercianti che hanno confermato con le loro dichiarazioni i risultati acquisiti in sede investigativa. Quindi nella piana di Gioia Tauro e nei confronti anche di una cosca dal cognome, diciamo, storicamente pesante per quelle zone, per tutto quello che evoca il cognome dei Piromalli, non hanno trovato dall'altra parte il silenzio e l'obbedienza, ma stavolta appunto 2 imprenditori hanno contribuito a portare agli arresti. Già l'anno scorso alcuni commercianti della città di Reggio avevano denunciato le richieste di estorsione, erano stati individuati responsabili, tratti in arresto e condannati. A distanza di un anno dobbiamo dire che queste persone stanno pagando, insomma, il proprio debito con la giustizia, i commercianti hanno ancora in piedi la loro attività e questa mi sembra una situazione assolutamente fisiologica di normalità istituzionale che noi auspichiamo si ripeta sempre più spesso. Se la mafia è una piovra, il movimento antimafia sarà una piovra ancora più grande. Non una voce sola contro la più potente mafia, ma una rete. Solo laddove ci sono associazioni contro le richieste di pizzo, denunciare diventa possibile, perché il singolo imprenditore non è più a tu per tu con il suo estorsore, come fu invece per Libero Grassi, ucciso da Cosa Nostra. E i segnali ci sono, ma il cammino è lungo, avverte il presidente dell'associazione Antiracket, Tano Grasso. 2, 3 indagini, 3 collaborazioni, quindi del tutto inadeguate rispetto alla diffusione del fenomeno. Certo, sono cose importanti che ci sono, ma ancora bisogna avere la consapevolezza che siamo all'inizio, ma all'inizio veramente all'inizio di un percorso. Rispetto a un po' di tempo fa in cui non c'era neanche questo segnale d'inizio, quantomeno c'è stato un inizio, diciamo. Certo, cioè, prima non c'era, adesso c'è l'inizio. Le faccio due esempi. Nel mondo dell'associazionismo anti-racket, con grande difficoltà nascono le associazioni. Cioè, mentre io ho in questo minuto ho quattro associazioni che stanno nascendo in Campania, in Calabria, oltre quelle che ci sono, non ho altre associazioni che stanno nascendo, capisce? Quante associazioni anti-racket ci sono in Calabria? Sei. E da quanto tempo? La più importante di tutte è quella di Cittanova, che è nata nel 1993 ed è nata a seguito di un importantissimo processo del quale 12 operatori economici andarono a testimoniare, a esporsi, a far condannare i famosi clan Iraso, Albanese e Facchinere. E allora nel 1993 nacque questa prima associazione calabrese che servì da modello. Una delle ultime è quella di Amantea e quella di Lamezia Terme, che forse oggi è la più vivace. Anche se i passi fatti sono ancora pochi e il cammino ancora molto molto lungo, le chiedevo di raccontarci in che modo anche sia però cambiata la vostra presenza e la presenza di associazioni anti-racket in un terreno aspro e difficile come la Calabria. Perché io dico l'esperienza di Lamezia Terme è una delle esperienze più interessanti? Perché lì abbiamo vissuto questa esperienza del processo contro il clan di quel territorio, con un testimone nostro associato, Rocco Mangiardi, e la cosa straordinaria è stata che attorno a quel processo si è costruito un consenso ed un sostegno da parte di chi non era commerciante, di chi non era dell'associazione, che ha reso veramente forte l'associazione anti-racket e i commercianti che si sono esposti, cioè il sostegno di un pezzo di opinione pubblica, soprattutto dei giovani, è stato un fattore per nulla secondario. A livello del mondo giovanile ci sono segnali significativi e interessanti. Le vostre associazioni, nel momento in cui si espongono e le persone che ne fanno parte, stanno subendo ancora pressioni, minacce, intimidazioni? C'è ancora un meccanismo di esclusione all'interno della comunità sociale, oppure da questo punto di vista qualcosa è migliorato? Da questo punto di vista è migliorato tantissimo, ma l'associazione esiste proprio per questo. Che tipo di storie arrivano a voi? Sono imprenditori medio-piccoli. Il mondo della grande impresa e soprattutto il mondo dell'impresa edile raramente si avvicina alle nostre associazioni. Il racconto che ci viene fatto è il racconto della richiesta del pizzo, dell'essere state avvicinate, di chi si è preso del materiale senza pagarlo, di chi ha indossato un vestito ed è andato via, o di chi si è portato quattro paia di scarpe per la famiglia. Che sono i meccanismi classici e i meccanismi, ahimè, ripetuti di richiesta del pizzo. Rispetto a questo racconto e rispetto al numero delle persone che vengono da voi a raccontarvi quello che subiscono, quanti riescono poi ad arrivare a formulare e a tradurre tutto questo in una denuncia? Diciamo che la percentuale ha alta. Nel momento in cui qualcuno inizia a parlare con noi, poi prima o poi quasi sempre si arriva al risultato giudiziario. Negli ultimi tempi sono subentrati due aspetti che vanno nella stessa direzione da interlocutori differenti e con metodologie diverse. Da una parte, appunto, c'è stata l'indicazione della Confindustria di adottare dei codici etici per cui va fuori dall'associazione chi subisce e non denuncia. Dall'altra parte, proprio non molto tempo fa e proprio in Calabria, i magistrati della Procura Regina hanno deciso di chiedere la espulsione dalla missione agli appalti pubblici di quegli imprenditori che avessero subito richieste di pizzo senza denunciarli. Questo tipo di strumenti adottati come sono stati recepiti da parte del tessuto imprenditoriale che casomai fino adesso ha subito in silenzio? Io la ringrazio intanto tantissimo per avermi fatto questa domanda, perché le devo dire con molta franchezza stanchezza, a me ha turbato l'indifferenza mediatica attorno a questo fatto della Procura di Reggio Calabria, che per me è il fatto più innovativo degli ultimi anni, cioè il fatto che la Procura di Reggio Calabria per la prima volta in Italia ha applicato quella legge che è stata chiamata la legge dell'obbligo della denuncia. Questa è la strada del futuro, secondo me. Non basta più lavorare convincendo gli imprenditori uno per uno che bisogna essere liberi. Qui si arriva fino a un certo punto. La svolta è quando si costruiscono meccanismi di convenienza. Faccio di tutto perché non sia conveniente pagare il pizzo. Se tu lo paghi, se tu non denunci, io ti metto fuori dalle gare pubbliche. Questo è l'atto veramente rivoluzionario, che mi consenta di dirle, è stato per la prima volta proposto in Italia da noi, cioè sono stato io, è stata la Federazione Antiracket a proporre questa sanzione amministrativa. Ora io mi auguro che dopo questa esperienza di Reggio Calabria altre procure applichino questa norma, che è una norma giusta e sacrosanta, perché non è possibile che delle imprese arricchiscano i propri profitti con il denaro pubblico e orientino una parte del denaro pubblico per finanziare la mafia. Questo tipo di sanzione ha provocato delle reazioni nel mondo imprenditoriale? È certo che provoca reazione. Ovviamente queste sono iniziative di grande rottura. Lei deve sapere che quando io 5 anni fa avanzai questa proposta, per pazzo fui preso in giro. Per fortuna, e da questo punto di vista l'iniziativa nazionale della Confindustria è stata un'iniziativa decisiva, grazie a questa iniziativa della Confindustria in un pezzo di sensibilità del mondo imprenditoriale è passata l'idea che sia una cosa giusta. I soldi pubblici attraverso le imprese non possono servire per finanziare la mafia. La cosa che mi ha colpito è che anche sulla stampa calabrese aver visto piccoli articolini su questo punto, tipico dell'atteggiamento meridionale, fare finta di niente, far passare. E se la sfida nella punta dello stivale è ora quella di dire io resto in Calabria, è una sfida lanciata anche con un progetto delle associazioni antiracket col Viminale, per non far partire le forze sane e anzi per portarne di nuove dall'estero. Ma questo progetto, denuncia a storiacce Grasso, ora arranca dietro le bufere politiche di tutt'altro tipo. Sempre col ministro Maroni abbiamo avviato un progetto del tutor antiracket. Abbiamo individuato un'area molto ampia, che è l'area della piana di Lamezia Terme, per offrirla ad investitori stranieri, garantendo loro condizioni di sicurezza. C'è un rapporto che abbiamo costruito col consolato tedesco, è venuto il console qualche mese fa a Lamezia Terme, e col consolato inglese. Quali sono i passaggi successivi? Che tipo di imprese potrebbero essere interessate a quella piana? Sono le istituzioni al massimo livello che sottoscrivono un contratto individuale tra lo Stato italiano, tra il governo italiano e l'impresa X della Germania, sulla base del quale il governo italiano si impegna ad assicurare totale condizione di sicurezza a chi viene a investire. Che quindi concretamente vuol dire anche proprio sicurezza sui cantieri? C'è il fatto che, ma questo usiamo, mettiamo insieme la presenza istituzionale e il know-how dell'associazionismo antiracket. Che cosa si aspetta per trasformarlo in qualcosa di concreto? Che ci sia una maggiore stabilità politica, perché dipende dal ministro Marone. Ci sono turbulenze politiche, ma non è che si vota a breve, almeno da un punto di vista nazionale, e quindi come lei capisce, il governo purtroppo negli ultimi mesi è stato impegnato a discutere troppo di questioni interne alla maggioranza e meno dei problemi del paese. Le mafie, non dimentichiamolo mai, vivono anche di simboli, di impegni e di costanza, e con questi strumenti vanno combattute. Termina qui questa puntata di Storiacce. Come sempre vi ricordo che potete riascoltarla e scaricarla sul nostro sito radio24.it nella sezione podcast. Ci ritrovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul nostro audioblog. Ciao a tutti, a sabato, e ricordate, scriveteci.